Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, insomma, parleremo soprattutto nella seconda ora di questi stranieri, ahimè, il tema degli stranieri è un tema tragico in queste ore, però c'è anche un tema che riguarda gli stranieri intesi come investitori. E dicemmo qualche giorno fa con una battuta, anche qui sembra un po' l'atteggiamento che si ha nei confronti dei lavoratori extracomunitari: devono esserci perché il paese ne ha bisogno, ma non devono farsi vedere. E se mi passate il paragone, è un po' così anche per gli investitori esteri: devono esserci perché le nostre privatizzazioni sono state fatte senza grandi capitali industriali soprattutto, e quindi gli spagnoli in Telefonica, i francesi in Air France, solo per citare i casi più noti. Però poi quando fanno sentire il loro peso e decidono anche di far sentire quello che è la loro voce dentro le varie compagini societarie, si grida subito alla colonizzazione. Allora cerchiamo di metterci d'accordo: c'è un rischio colonizzazione oppure bene che vengano gli investimenti stranieri se mancano i capitali italiani? Lo dico perché anche oggi tengono banco, al di là di Telecom, ma soprattutto Finmeccanica e Alitalia. Per quello che riguarda l'Italia, il Consiglio di amministrazione ha all'ordine del giorno un aggiornamento sul piano finanziario, tutto in vista dell'assemblea del prossimo 14 ottobre, che dovrà varare l'aumento di capitale. E sarà anche cruciale per capire la posizione dei partner francesi, i primi azionisti appunto della compagnia, che non hanno votato, hanno votato no all'aumento di capitale, quello da 150 milioni. Perché lo dico? Perché è chiaro che Air France vuole e ha già fatto capire che detterà delle condizioni molto severe per aumentare la sua quota in Alitalia. Oggi ha dichiarato che potrebbe alimentare i voli a lungo raggio dell'Italia e viceversa. Però Philippe Calavia, che entrando nella sede in cui si svolge il Consiglio di amministrazione dell'Italia, ha detto: non c'è nessun piano di Air France su Alitalia, non leggete i giornali. Sono prudente per ruolo e ottimista per natura. Oggi in realtà, secondo l'iscrizione che riporta il Messaggero di Roma, i francesi sarebbero pronti a, nel caso passasse il loro piano di controllo dell'Italia, a operare 4.000 tagli nei posti di lavoro, dimezzare la flotta dell'Italia e chiudere all'Italia Handling per i servizi in pista. Ripeto, queste ipotesi, indiscrezioni, sono state smentite dai vertici di Air France. Praticamente diventerebbe, secondo la ricostruzione che ha fatto il Messaggero, Parigi il vero hub, e farebbe perdere il ruolo di hub, di aeroporto grosso di smistamento, all'aeroporto di Fiumicino. Andrebbero in fumo 12 miliardi di investimenti e migliaia di posti di lavoro. E questo è il fronte all'Italia, che, faccio notare, nei primi sei mesi dell'anno ha accumulato una perdita di quasi 300 milioni. Ora, nel 2008, quando ci fu la grossa partita, c'era il governo Prodi che andava a elezioni, sulla vendere o no all'Italia ai francesi. A quel tempo, lo ricordo molto bene perché lo raccontavamo ogni giorno, Alitalia perdeva 1 milione di euro al giorno. Ora, se ne ha persi 300 in sei mesi, beh, non ci vuole un genio per capire che qui siamo a quasi 2 milioni di euro di perdita al giorno, ogni giorno. Questo lo dico perché va bene l'aumento di capitale e vediamo se permetterà di respirare per qualche mese, ma è inutile immaginare che a botte di piccoli aumenti di capitale possa essere mantenuta in vita, diciamo, in vita artificiale quasi, all'Italia. Un gruppo che perde 300 milioni nei primi sei mesi è un gruppo che è strutturalmente in difficoltà. Lo dico con massimo rispetto perché tutti noi siamo anche clienti dell'Italia, ma insomma non è pensabile perdere quasi 2 milioni di euro al giorno. Ancora, per quello che riguarda invece un altro capitolo dei dossier aperti, si chiama Ansaldo Energia. La controllata genovese di Finmeccanica potrebbe infatti entrare presto sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti. Allora, la CDP, anche qui, a me fa impazzire perché quando c'è un problema in questo paese, uno invoca o evoca la Cassa Depositi e Prestiti, che ha liquidità. Faccio solo notare che si tratta dei risparmi postali degli italiani, non è una liquidità così dovuta a altro. E ogni volta tirare per la giacchetta la Cassa Depositi e Prestiti, io chiedo, va bene, perché entrerà l'Ansaldo Energia nell'orbita della CDP? Per rilanciarla? Perché sono i soldi dei risparmi postali degli italiani. Il fondo strategico dovrebbe entrare con una quota consistente, si dice, del 70%, in quella che è una società attualmente partecipata al 45% dal fondo, scusatemi, USA First Reserve, e al 55% da Finmeccanica. Poi potrebbe andare alla ricerca la Cassa Depositi e Prestiti di un partner industriale. Questo che obiettivo ha? In realtà non ha un obiettivo di rilancio in senso stretto di Ansaldo Energia, ma solo di mantenere Ansaldo Energia italiana. E tra l'altro, secondo quanto si è saputo, è probabile che comunque cercheranno un partner industriale nella coreana Doosan, che già ieri era tra quelli che avevano offerto, si erano fatti avanti per acquisire Ansaldo Energia. Ripeto, uno può pensarla come vuole, però bisogna capirsi e decidere una volta per tutte se facciamo entrare i capitali stranieri e vinca il migliore, oppure decidiamo un po' alla francese che alcune aree industriali di questo paese, alcuni settori, scusatemi, industriali di questo paese sono strategici, e però allora ci muoviamo prima, non arriviamo sempre all'ultimo. La vicenda Ansaldo Energia ricorda un po' quella Telecom Italia, anche se Telecom era già completamente privata. È mesi che parliamo di una cessione e dell'interessamento di alcuni grandi gruppi internazionali per Ansaldo Energia. Ecco, non vorrei rivedere lo stesso film. Mi sembra che anche questa volta si metta una pezza molto velocemente per evitare che finisca in mano straniere, ma senza averci riflettuto e senza dare, diciamo, a questa operazione della Cassa Depositi e Prestiti un orizzonte industriale di medio-lungo termine, cioè che cosa devi fare visto che stai usando i soldi dei risparmi postali degli italiani. Nella prima ora del programma invece ci occuperemo di due cose, e mi riferisco da un lato alla manovrina, come oggi la chiama Sole 24 Ore, da 1.600.000.000 di euro, perché bisogna correggere il deficit che è al 3,1% sul PIL, e bisogna trovare i soldi. Oggi c'è stato un consiglio dei ministri su questo, per le missioni italiane all'estero e la copertura della cassa integrazione in deroga. Poi si tratterà di affrontare il tema della seconda rata IMU, che vale 2 miliardi e 5 più o meno, 2 miliardi e 6 per la precisione. E vi saranno tagli ai ministeri, qualche dismissione di immobili pubblici, poi a ottobre dovrà arrivare la legge di stabilità, ma insomma è una strada molto stretta quella che aspetta il governo da qua a metà ottobre. In apertura del programma però torneremo in America, perché questo shutdown rischia di diventare un default. Scusatemi gli inglesismi, sapete che non li amo, ma insomma il fatto che non vi sia stato un accordo a livello del Congresso americano sulla legge finanziaria, sul budget americano, ha in automatico bloccato moltissimi ministeri e enti federali, come si chiamano in America, non li chiameremo enti pubblici, proprio chiusi. Non so, oggi non sono usciti i dati sul mercato del lavoro perché i ministeri del lavoro, gli uffici competenti, erano chiusi. Perché in America, nel momento in cui tu non stabilisci il budget per l'anno prossimo, si bloccano gli uffici. Ma rischia di diventare, questo è lo shutdown, un default, o meglio, rischia di generare veramente uno tsunami a livello economico-finanziario, perché un conto è chiudere gli uffici, un conto è non trovare un accordo su quello che sarà il prossimo budget per il 2014. Gli uffici possono chiudere pro tempore, ma un accordo gli Stati Uniti lo devono trovare. Pensate che tutti i 401 parchi nazionali americani, tra cui il Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite, sono chiusi. Anche la Casa Bianca, il personale lavora a ranghi ridotti, le visite turistiche sono sospese, fermi anche tutti i siti dei dipartimenti, le agenzie federali e quant'altro. In questo momento sta costando agli Stati Uniti qualcosa come 300 milioni di dollari al giorno, sono 800 mila i lavoratori obbligati a stare a casa. So che alcuni in qualche modo inneggiano a questo metodo americano, devo dire che in effetti perlomeno lì, se non ci sono gli stanziamenti previsti per la pubblica amministrazione, si ferma, da noi si va avanti a accumulare deficit. Però adesso, tra l'altro, pensate che questa è una cosa che, diciamo, ha poco a che fare con l'Italia. In questo momento, se un dipendente di un ufficio federale usa il telefono aziendale, che sia telefonino che sia telefono fisso, può rischiare il carcere. Altro che da noi, perché in questo momento non può uscire un dollaro come spesa, diciamo, corrente dagli uffici federali americani, per cui tutti i lavoratori sono paralizzati. La legge si chiama Anti-Deficiency Law, pensate che è un provvedimento che risale a 143 anni fa. Per cui qualunque tipo di materiale aziendale deve essere l'utilizzo di qualunque tipo di materiale aziendale, anche il BlackBerry, anche le matite, deve essere autorizzato, non può essere usato come si fa normalmente durante l'attività normale, senza shutdown. Hanno chiuso anche il centro di addestramento della sicurezza nazionale, dove ci sono 70.000 agenti che fanno capo a 91 diverse agenzie. Di questo parleremo subito. E poi, dicevo, la borsa, la nostra legge finanziaria e stranieri sì, stranieri no. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, per quello che riguarda la borsa, rapidamente, oggi la giornata è positiva in tutta Europa e particolarmente positiva a Milano, dove complice anche uno spread italiano e appunto il venir meno della paura della crisi di governo. Lo spread è sceso sotto i 250 punti, 247, ci stiamo riavvicinando anche agli spagnoli, ci distanziano solo 9 punti. Vanno bene, vanno molto bene le banche, come sempre accade. Più 7,27% la Popolare Emilia Romagna, più 6,77% il Banco Popolare, più 6,40% UbiBanca, più 5,20% la Popolare Milano e ancora più 4,33% Mediobanca, più 4,15% Monte dei Paschi. Va bene oggi anche Fiat, più 3,20%, A2A più 2,80%, Enel Green Power più 2,80% anch'essa, dimenticavo Unicredit, più 3%. Negativa Tenaris, meno 1,70%, Telecom Italia meno 1,1%, Buzzi Unice meno 1,15%. Allora, dalla Svizzera arriva una notizia, che insomma è proprio la Svizzera questa, perché oggi a Berna sono state consegnate 130.000 firme per l'iniziativa popolare che chiede un reddito di base incondizionato per tutti gli svizzeri di oltre 2.500 franchi, siamo a oltre 2.000 euro. Praticamente dovrebbe essere il reddito di base incondizionato allo scopo di consentire a tutta la popolazione di condurre un'esistenza dignitosa. Costo dell'operazione 221 miliardi di euro l'anno. Per i promotori il progetto è finanziabile, 70 miliardi risulterebbero da risparmi sulle assicurazioni sociali, poi bisognerebbe trovare altre soluzioni non meglio precisate. Dalla Svizzera alla Grecia è un volo quasi pindarico, perché i greci, colpiti dalla crisi economica ma soprattutto dalla ricetta pesantissima della Troica, del Fondo Monetario, Banca Centrale Europea e Commissione Europea, stanno tagliando anche i consumi di farmaci. Sono al sesto anno consecutivo di una recessione pesantissima. Secondo una ricerca pubblicata oggi, negli ultimi tempi un cittadino greco su tre ha ridotto il consumo di farmaci e 6 su 10 ammettono che la crisi ha avuto un impatto negativo sulla loro salute, e il 28% ha affermato di distanziare nel tempo l'assunzione di medicine nella speranza che l'effetto terapeutico duri più a lungo. E poi il rapporto, il 18° rapporto sul sistema finanziario della Fondazione Rosselli, diffuso oggi, secondo il quale praticamente l'Italia è in realtà ultima per aiuti di Stato alle banche in Europa, comprendendo anche i 4 miliardi che abbiamo dato al Monte dei Paschi di Siena. Il nostro sostegno alle banche è pari allo 0,3% del PIL. Allora, sapete quante volte spende la Germania come Stato in aiuti alle sue banche? No, perché questa cosa che i tedeschi siano sempre virtuosi, sapete che a me fa impazzire, 6 volte più dell'Italia. E qui spende l'1,8% del suo PIL, noi spendiamo lo 0,3% come dati 2012. Al primo posto c'è l'Irlanda, che ha aiutato le sue banche fino al 40%, la Spagna il 5% del PIL. E sempre il rapporto della Fondazione Rosselli fa notare che nell'ultima fase le banche italiane hanno tagliato del 5% annuo il credito alle imprese. E quindi questo è il dato ufficiale, al di là dei motivi, sono richieste minori, sono richieste solo per spese correnti, non ci sono progetti. Però intanto qui il trasferimento di soldi da Francoforte alle banche italiane è anche avvenuto, dalle banche italiane alle imprese, alle famiglie italiane, boh, latita. E poi ancora due notizie. Il Consiglio dei Ministri, come già ampiamente anticipato ieri, ha nominato Carlo Cottarelli commissario per la Spending Review. Speriamo che abbia più fortuna di Enrico Bondi, me lo auguro veramente. E poi gli ultimi dati dell'Istat sul 2010 fanno notare che il cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto costi tu alla tua azienda e quanto ricevi in busta paga, assorbe il 46% del costo del lavoro. Per cui la differenza tra quanto costa, da quanto diciamo è il carico per il datore di lavoro, è del 46% sulla busta paga complessiva, una cifra oggettivamente inaccettabile. Mentre i dati fiscali fanno notare come in Italia praticamente in un caso su 4 il reddito sia inferiore ai 10.000 euro. Praticamente il 26% dei redditi lordi al netto dei contributi sociali è sotto i 10.000 euro, la maggior parte, il 39%, tra i 15.000 e i 30.000 euro. Solo il 2,3% degli italiani dichiara e ha un reddito superiore ai 70.000 euro annui e lordi. Però nel frattempo, sono dati chiaramente che non reggono con la fotografia del paese, e di mezzo la differenza si chiama evasione fiscale. Anche perché oggi l'Agenzia delle Entrate ha fatto notare che l'operazione Case Fantasma ha scoperto, diciamo così, 492.000 immobili per una rendita presunta complessiva di 288 milioni di euro, che erano inesistenti per il fisco italiano. Volete sapere di Finmeccanica? Il Consiglio di Amministrazione è riunito, io non ho visto ancora nessuna agenzia, è ancora riunito, comunque sta valutando la cessione appunto dell'85% di Ansaldo Energia, come spiegavamo prima, la Cassa Depositi e Prestiti. (Applausi) 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo con il primo tema e mi riferisco all'uragano Shutdown. Perché uragano negli Stati Uniti? Perché il calcolo di quanto sta costando 300 milioni di dollari al giorno è identico al calcolo dei danni che fece, per esempio, ogni giorno l'uragano Katrina. Ecco perché lo si chiama uragano Shutdown. Dicevamo 800.000 lavoratori a casa, nessun dato sulla disoccupazione, i parchi chiusi, il blocco anche delle cure sperimentali per 30 bambini con il cancro, e tra l'altro il rischio che se non si trova un accordo dallo shutdown si passi al default, al fallimento, che potrebbe portare a una recessione catastrofica del livello di quella del 2008. Non ci voglio credere, non ci voglio nemmeno pensare. Mario Platero, il corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Buonasera, Mario. Buonasera Sebastiano, cerchiamo anche tu sei di, in shut... di non... Anche tu sei in shutdown. Sono in quasi shutdown, perché quando chiamo, per esempio, come mi è successo ieri, una persona che sento ogni tanto alla Casa Bianca, e c'era la segreteria telefonica che diceva terribly sorry for shutdown, I'm not gonna be here, quindi per lo shutdown non ci sarò. E in effetti ho poi scoperto che ben 1250 dipendenti della Casa Bianca, anche loro sono stati sospesi dal lavoro. La Casa Bianca non è soltanto quella che immaginiamo noi, c'è anche l'Old Executive Office Building che è di fianco, che è un enorme complesso, e sono rimasti addetti per le cose urgenti a disposizione, attenzione, 129 persone. Quindi questo shutdown ha trasformato Washington un po' in una città fantasma. Ieri c'è stata questa movimentazione tragica di questa strana storia di questa donna che ha cercato prima di penetrare le barriere alla Casa Bianca, poi il Campidoglio, poi è stata uccisa. L'altra curiosità è una storia tragica, ovviamente, perché sembra che la donna fosse poi una pazza, insomma una folle, ma i poliziotti che poi l'hanno fermata erano senza paga anche loro, perché ci sono una gran quantità di lavoratori, oltre agli 800.000 che tu hai citato che restano a casa, ce ne sono circa 1 milione che invece vanno a lavorare ma sono senza paga. Quindi la situazione è insostenibile. Nel 95 durò, pensa, 28 giorni. Il costo, tu hai accennato al costo di 300 milioni di dollari al giorno, ecco, quello è il costo diretto, ma se si pensa all'indotto e ai costi indiretti, beh, il costo sale moltissimo. Per esempio, la United Technologies, che fornisce i Black Hawk al Pentagono, ieri ha annunciato di aver sospeso dal lavoro 2.000 dipendenti. Quindi lo shutdown si sta estendendo al settore privato. Se continuerà la settimana prossima, ha detto United Technologies, dovremo fermarne altri 2.000 che lavorano alla divisione Pratt & Whitney che fa i musei. Ecco, moltiplica questo per tutto il resto dell'economia americana, e il calcolo complessivo dell'impatto sull'economia, se questo shutdown dovesse continuare tra le 3 e le 4 settimane, è stato calcolato in 55 miliardi di dollari. Quindi un impatto sul tasso di crescita, un impatto sul tasso di crescita del quarto trimestre, calcolato fra lo 0,2 e lo 0,4-0,5%. Qualcuno pensa che la Fed, ricordi quando prese la controversa decisione di lasciare la politica di acquisti dei buoni del tesoro invariato, 85 miliardi di dollari al mese, lo fece anche come gesto, diciamo, preventivo, per giocare d'anticipo sul rischio, che sembrava già piuttosto evidente allora, che il governo chiudesse e che poi ci fosse questo 1-2 del tetto sul debito, che Warren Buffett ha definito, è stata molto interessante devo dire, ha detto che i politici sono degli idioti, però lui è convinto, per questo ti dicevo speriamo in bene, che non arriveranno all'idiozia estrema, e dunque alla fine almeno sul rinnovo del tetto sul debito si metteranno d'accordo. La cosa, quanto vedi probabile il rischio che dallo shutdown si passi al default, Mario? Guarda, io credo che le probabilità siano minime, e questo lo vediamo anche dalle reazioni dei mercati. E lo dico questo non solo perché insomma l'istinto al suicidio uno immagina e spera che sia il più limitato possibile, ma perché lo stesso Boehner, il presidente della Camera, il repubblicano Boehner, ha detto che farà di tutto per evitare, mentre continueranno ad oltranza sullo shutdown, può essere che duri qualche settimana, ma ha detto che sicuramente sul superamento del tetto sul debito, che ricordiamolo è un tecnicismo, cioè ci sono il Parlamento stabilisce un tetto su quanto il governo americano si può indebitare, poi lo rinnova, ed è un rinnovo quasi automatico. Era stato stabilito l'ultimo tetto a 16.700 miliardi di dollari. Il segretario del Tesoro Liu ieri ha detto che per il 17 di ottobre resteranno soltanto 30 miliardi di dollari in cassa, dunque si potrà andare avanti solo pochi giorni, e quindi basterebbe, come dire, il rinnovo automatico. È una stupidaggine, veramente è una formalità burocratica, però attaccandosi anche alla formalità burocratica, gli estremisti del Tea Party, gli estremisti del Partito Repubblicano ne approfittano per creare confusione, per cercare di spaventare il pubblico insomma, per creare una situazione che sta, secondo me, danneggiando il Partito Repubblicano nel suo insieme invece che aiutandolo. Speriamo che tu abbia ragione, perché ci mancherebbe solo, diciamo, un danno dall'America della portata della porta che avrebbe default. Il prossimo passaggio, perché io non so, obiettivamente in Italia e in Europa non esiste una legge simile, ma quanto possono restare chiusi questi uffici, Mario? Perché non è che proprio non servono a nulla. No, infatti il problema, voglio dire, quando ti parlavo di indotto, ci sono indotti certo. Sotto molti punti di vista. I dipendenti pubblici che non ricevono lo stipendio, ma che devono pagare i conti alla fine del mese, che devono pagare il mutuo alla fine del mese, il rischio di andare in default sul mutuo immobiliare, le aziende che devono ricevere pagamenti e non li ricevono. Insomma, il problema è molto serio. Nel 95 durò 28 giorni. La battaglia allora era fra Bill Clinton certo. e Newt Gingrich, il vecchio leader della Camera repubblicano, e durò 28 giorni. Quindi come punto di riferimento abbiamo quello. Voglio anche dirti un'altra cosa in questa assurdità. Che è vero che l'ultima volta che ci fu questa chiusura fu nel 95, però è anche vero che prima di allora, nella storia americana recente, credo, poi ci sono stati ben 17 occasioni in cui il governo americano chiuse. Quindi non siamo più abituati, diciamo, il governo, la politica americana si era rimessa un po' in riga, però era una cosa che succedeva abbastanza frequentemente. Io credo, spero che nel giro di un paio di settimane risolvano tutto. Grazie Mario Pratero in collegamento con noi da New York. Un paio di settimane al costo di 300 milioni di dollari al giorno non è poca cosa, lo dico anche a chi sta scrivendo al 349-238-6666. Allora, vedo tanti messaggi sul fatto che anche in Italia si dovrebbe fare come negli Stati Uniti. Sì, vabbè. Attenzione poi alle conseguenze. Noi esageriamo nell'altro senso, cioè si vanno sempre a ripianare le spese della pubblica amministrazione, oppure si fanno tagli di carattere lineare, quindi che fanno morti e feriti. Però anche il metodo americano rischia di creare un impasse non da poco conto, come Mario Pratero appena raccontato. Vedo su Facebook soprattutto molti commenti ancora sull'euro, uscire dall'euro. Allora ragazzi, uno la può pensare come vuole a sto mondo, però io di esoterismo economico non mi occupo, ok? Ragioniamo di come cambiare l'Europa, di come cambiare da dentro. Abbiamo attaccato per anni la posizione tedesca, è un'Europa troppo ragionieristica, tutta basata sull'austerity, è un conto. Immaginare una cosa che nemmeno i greci, nemmeno i portoghesi, quando erano in ginocchio, hanno mai immaginato, e hanno preferito beccarsi la purga della troica piuttosto che uscire dall'euro, è una cosa da esoterismo economico. Tanto, siccome nessuno sa cosa capiterebbe, o almeno lo sappiamo, dove andrebbe l'inflazione, dove andrebbe il nostro debito, però piace raccontare che se uscissimo dall'euro tutti i nostri problemi sarebbero risolti, non avremmo più il debito pubblico, avremmo una pubblica amministrazione efficiente, non ci sarebbero più miliardi, 60 miliardi in tangenti all'anno, l'evasione fiscale, tutti i problemi derivano dall'euro. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla manovrina in vista, io quando sento il termine manovrina mi viene in mente tutto la prima repubblica, manovra correttiva, manovra di aggiustamento, manovrina, che comunque si avvicinerà ai 2 miliardi di euro, tra l'altro nel giorno in cui la commissione bilancio della Camera ha bocciato per mancanza di copertura finanziaria l'emendamento della maggioranza che prevedeva la tutela delle imprese che lavorano nel cantiere TAV di Chiomonte, ha però approvato la proroga delle missioni internazionali. Quando poi leggo che la legge di stabilità del 2014, la legge finanziaria per il prossimo anno, dovrebbe prevedere interventi in bilancio per 10 miliardi, tutti recuperati con i tagli alla spesa pubblica. Sì, vediamo quali tagli, dove. Vabbè, auguri a Cottarelli che deve fare la spending review. Prima di tutto però passiamo alla borsa. Più 1,60% Milano, più 0,30% Francoforte, più 0,90% Parigi, più 0,16% Londra e più 0,19% gli Stati Uniti. Quindi Milano decisamente la migliore tra tutte le borse europee. Il motivo si chiama banche. Quando lo spread cala, come è successo anche oggi, sotto i 250 punti, si va a comprare titoli bancari, così come si va a vendere quando lo spread aumenta, perché il calcolo è il costo che ne avranno le banche per uno spread più alto e il risparmio che ne avranno per uno spread più basso. E infatti la pattuglia di titoli che guidano oggi Piazza Affari sono tutti bancari. Popolare Emilia Romagna più 7,30, Banco Popolare più 6,80, Ubibanca più 6,30, Pop Milano più 5,1, Mediobanca più 4,40, Monte dei Paschi più 3,70%, Unicredit più 3,30%. Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Era un po' che non vedevamo tutte le banche crescere in questo modo, ma insomma è anche il respiro di sollievo per lo spread, ma per la scampata crisi di governo. Infatti siamo tornati con lo spread ai livelli pre-crisi. Invece Mediaset, che nel giorno appunto sulla decadenza, del voto sulla decadenza per Silvio Berlusconi, guadagna alla fine il 2,72%. Sì, c'era attesa per capire come il titolo avrebbe reagito al voto sulla decadenza di Berlusconi. In realtà la reazione sostanzialmente non c'è stata, il titolo guadagnava circa il 2,5% prima dell'annuncio, attorno alle 4:30, 5:15, e ha continuato un pochettino sulla falsa riga di quello che aveva fatto fino a quel momento della giornata, quindi sostanzialmente la reazione è stata nulla. Un 2,72% che si spiega con il buon andamento generale dei titoli legati all'editoria, perché anche il gruppo L'Espresso ad esempio ha fatto più 9,82%, quindi un grosso balzo oggi, e in linea invece per quello che riguarda Mediaset, un po' con l'andamento positivo generalizzato che si è registrato oggi a Milano. Ancora tra i titoli Finmeccanica, ne parleremo ampiamente dopo nella seconda ora del programma, però il titolo oggi nel corso oggetto di interesse soprattutto per la controllata Ansaldo Energia, l'ingresso alla Cassa Depositi e Prestiti, i titoli. Sì, il titolo ha fatto più 0,58%, non si è mosso molto, in qualche modo aveva già scontato nelle sedute precedenti quello che oggi dovrebbe essere semplicemente una formalizzazione, un annuncio. Oggi c'è il CDA che esaminerà appunto il dossier Ansaldo Energia, è scontato che si arrivi alla cessione dell'85% al fondo strategico della Cassa Depositi e Prestiti. Finmeccanica resterà col 15%, in realtà poi l'operazione è più complessa perché a regime si arriverà al fondo strategico con una maggioranza attorno al 51% e una minoranza qualificata per i coreani di Doosan, che erano comunque interessati, erano anche disposti eventualmente a rilevare totalmente Ansaldo Energia. Ancora, vedo dei messaggi sull'euro, che mamma mia. Vabbè, ancora Telecom Italia negativa oggi meno 0,80%, Tenaris meno 1,80%, Buzzi Unice meno 1,20%. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Certo che chi vuol dunque scrive un'ascoltatrice, Alessandra, ignorante che non sei altro, io voglio uscire dall'euro. Non basta dire cavolate, in realtà uso un altro termine. Va bene, abbiamo stabilito che i problemi di questo paese, il problema di questo paese si chiama la nostra permanenza nell'euro. Va bene, dai, dopo daremo anche una risposta sull'euro, con tutti i problemi che abbiamo. Andiamo avanti invece. Guido Maurino, dicevamo di titoli che oggi non sono cresciuti in un mercato comunque tutto positivo. Tenaris meno 1,81%, Telecom Italia meno 0,80%. Sì, per quello che riguarda Tenaris e Buzzi Unice, ma oggi meno 81%, meno 1,23%, non ci sono grandi notizie se non un andamento europeo dei due settori non particolarmente brillanti. Per quello che riguarda invece Telecom Italia, meno 0,78%, l'andamento si può spiegare in gran parte con alcune prese di beneficio, considerando che nelle ultime quattro sedute il titolo aveva guadagnato oltre il 10%. Ieri c'è stata l'ufficializzazione dell'uscita del presidente Bernabé, oggi il mercato è tornato a guardare sulle preoccupazioni relative al debito e al declassamento del debito da parte delle agenzie di rating, per cui in una giornata complessivamente positiva per Piazza Affari, alla fine Telecom Italia ha chiuso in negativo. Ancora andiamo sui migliori e peggiori oggi della seduta, tra i titoli minori, ma comunque Arena è il secondo giorno che fa un botto, più 17,60%. Sì. Ha fatto più 50% da inizio settimana, no? Sì, ha fatto più 50% da inizio settimana, dopo la notizia che ha ottenuto il via libera alla proposta di procedura di concordato preventivo, quella prevista per aziende in crisi, per la propria controllata Arena Alimentari Freschi. Una notizia che per una società comunque in difficoltà come Arena è positiva, e anche considerando fra virgolette un po' lo scarso flottante, un po' il fatto che è un titolo molto sottile, sì. Questo gli ha consentito di realizzare queste performance. Stefanel più 11,40%, L'Espresso più 9,80%, Best Union Company più 7,90%, Credito Bergamasco più 7,60%. E poi le banche che ricordavamo, fronte opposto, IKF meno 4,50%, Aeroporto di Firenze meno 2,90% e Cell Therapeutics meno 2,70%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corri sulle 24 ore, buon fine settimana a te e ai colleghi dell'agenzia di stampa. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. Allora, giustamente scrive un ascoltatore, ma io a questo punto voglio la sterlina. Ma dico, con tutti i problemi che abbiamo in questo momento, perché qualche esoterista o apprendista stregone si inventa che se uscissimo dall'euro e i nostri problemi sarebbero risolti? Ma di cosa stiamo parlando? Altra cosa, vedo che c'è anche chi mi insulta dicendo che io sono lecco, diciamo, parti intime di Prodi e di Angela Merkel. Ora, non so, tutto si può dire, ma a me sembrava di averla criticata abbastanza in questi 2-3 anni, Angela Merkel e la posizione tedesca. Allora, un conto è dire che non va bene questo tipo di Europa tutta ragionieristica, tutta basata sul deficit al 3%, sul fiscal compact e quant'altro, e lo diciamo da anni, che serve una golden rule di un altro tipo per quello che sono gli investimenti degli stati, che ci debba essere uno scorporo tra gli investimenti in infrastrutture di un paese invece le spese correnti, per cui che non si possa calcolare tutto nel calderone del deficit, il 1,3 miliardi che spendiamo in consulenze con invece 1 miliardo speso per un investimento. Ma da lì ad arrivare a dire che devi abbandonare l'euro, cosa facciamo? Usciamo da soli? Ci prendiamo tutta la svalutazione del caso? Abbiamo l'inflazione che schizza? Questo non lo racconta mai, però. Sempre l'euro cattivo. Ma perché questo paese si innamora sempre dei nemici e non fa mai autocritica? No. Sembra un po' come quando era la perfida Albione, oppure il complotto pluto giudaico massonico. Ah sì, perché poi sono gli stessi che hanno in mente la Bilderberg Group. Ah boh. Infatti il Bilderberg Group è così forte che la crisi finanziaria è scoppiata a Wall Street e ha bruciato parecchi miliardi anche degli appartenenti. Ma per favore, Dino Pesole, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Anche tu vuoi uscire dall'euro? No, non ci penso proprio. Non so perché qua mi sembra di sognare. Io capisco l'esasperazione della crisi, ma i problemi non si risolvono con la bacchetta magica, con un colpo di spugne via, si fanno le riforme in questo paese, si pagano le tasse, si combatte l'evasione, si riduce la spesa pubblica, la si rende più produttiva, si liberalizzano i settori protetti, si mettono in concorrenza anche gli ordini professionali. Vogliamo fare queste riforme e poi vedere se veramente è colpa dell'euro oppure no? Perché i paesi che le hanno fatte invece non vanno male, e mi riferisco non solo alla Germania. Comunque, io ti riprenderò dopo il GR. Mi dici di quanti soldi ha bisogno il governo, solo questa cifra per la manovrina alla fine? Al momento siamo fermi a 1,6 miliardi, quello che serve per riportare il deficit dal 3,1 al 3%. Non è detto che basti, però. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. 18 e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Il sogno di oggi è discutere finalmente ogni tanto di temi seri e non trovare sempre il capro espiatorio che adesso non so perché è diventato l'euro. Stiamo male perché c'è l'euro. Allora, per favore, adesso io non rispondo a insulti, anche perché tutti questi tifosi dell'anti-euro sono anche belli pesanti, un po' come certe sette. Allora, se si riesce a trovare una visione, diciamo, che non sia sempre manichea, però poi la chiudiamo qui. Abbiamo criticato per 3 anni come l'Europa ha gestito la sua crisi, il taglio ragionieristico, tutto improntato all'austerità, tutto, diciamo, guidato dalla Germania o germanocentrico, gli errori che questo ha causato, gli errori che ha causato anche in Grecia, il fatto che si potesse salvare la Grecia molto prima senza farla precipitare nella situazione in cui è arrivata, senza bruciare 1.600 miliardi di capitalizzazione in borsa e quant'altro. Abbiamo detto più volte che un'Europa come questa non serve se non riesce anche a capire che il problema non è l'inflazione in questo momento, ma è la mancanza di investimenti e di consumi e che c'è anche un euro troppo forte. Ma una volta che uno dice questo, non può mica poi arrivare a dire se è così usciamo dall'euro, perché non esiste una exit strategy dall'euro, nemmeno la Grecia l'ha mai inventata una cosa del genere. E poi a me sembra, nel leggere tutti questi post-it che mi danno dell'ignorante, per carità, ignorante lo sono per definizione, non conosco tutto, ma sembra che vi sia un'unica soluzione per i problemi italiani: uscire dall'euro. Perché certo esporteremo qualcosa in più, i costi dell'import delle materie prime energetiche e di tutte le materie prime che viaggiano su merci e sul trasporto merci nessuno li mette in considerazione, vero? Quello che capiterebbe al nostro debito, agli interessi sul debito italiano, nessuno lo prende in considerazione. E questo sarebbe il modo per risolvere i problemi dell'Italia, che a me sembrano anche problemi nostri, molto molto nostri. Ultima chiosa: Krugman, Stiglitz, economisti che noi rispettiamo moltissimo, hanno criticato questa impostazione di Europa. Poi c'è chi anche da tempo dice che l'euro fu sbagliato, ma la vera critica è al modo in cui l'Europa sta conducendo le sue politiche monetarie ed economiche, o politiche fiscali come si chiamano in gergo. E non ho problemi a dire, l'abbiamo detto decine di volte, che il fiscal compact, l'azzeramento del deficit nel periodo previsto, è una cavolata che avrà un effetto recessivo sull'economia dell'area euro. Ma queste sono scelte politiche europee, altra cosa è prendersela con la valuta, con l'euro. Oh, Dino Pesole, 1,6 miliardi di manovrina, ma perché non basterà? Beh, insomma, non è detto che basti, per il semplice motivo che per ora le previsioni sono fatte scontando alcuni elementi che dovrebbero poi realizzarsi. Ne dico una per tutti: il governo ha previsto, proprio con la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza di qualche settimana fa, che quest'anno il PIL decrescerà dell'1,7%, mentre ci sono altri previsori, ad esempio il Fondo Monetario, che la vede un po' peggio, parla dell'1,8, tanto per dire una. E lo ha fatto il ministro Saccomanni ipotizzando che ad esempio nell'ultima parte dell'anno ci sia un effetto sul PIL, un effetto positivo ovviamente sul PIL, che deriva anche dallo sblocco dei famosi debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese, e ha messo una cifra, ha cifrato 0,1 come elemento che potrebbe favorire e sostenere la crescita e quindi non farla piombare verso il 2%. Questa evidentemente è una scommessa, al pari dell'altra scommessa che è quella di avere un effetto positivo sul PIL, anch'esso dello 0,1, che deriverebbe dalle misure che il decreto IMU della fine di agosto ha inserito per quel che riguarda ad esempio le politiche per l'edilizia. Se questo effetto non si realizzerà, è del tutto evidente che ci sarà un impatto negativo ulteriore sulla crescita, e come sappiamo tutti, se si cresce di meno è molto probabile che ci sia un impatto negativo sui conti. Quindi sono ipotesi che ovviamente tutti auspichiamo non si realizzino, perché sennò ci vorrà un'altra. No, ma scusami, però sul documento, sulla legge finanziaria per l'anno prossimo, io ho letto, insomma, che il governo punta a reperire 10 miliardi di tagli alla spesa pubblica. Ma è plausibile? No, io voglio dire, se fosse fatta bene sarei anche contento, ma 10 miliardi in un anno solo? Queste sono le ipotesi di partenza. In realtà 10 miliardi, adesso c'è Carlo Cottarelli stato nominato oggi. Si chiama Carlo Cottarelli, non Superman, però. Appunto, io penso che 10 miliardi di tagli alla spesa pubblica in un anno sono una missione quasi impossibile. Oh no, oppure l'Accademia di Stoccolma lo chiamerà per il prossimo Nobel all'economia, perché 10 miliardi. No, detto questo, è del tutto evidente che il nostro bilancio, che quest'anno vede la spesa pubblica alla quota di 802 miliardi, se si tolgono le spese che non si possono comprimere, qui parlo di pensioni, di stipendi, parlo degli interessi, perché quelli li dobbiamo pagare fino a che abbiamo il debito, beh, c'è un largo margine sul quale si può intervenire, però allora uno si chiede perché non sia stato fatto finora, perché è del tutto evidente che la spesa pubblica è l'elemento chiave con cui si guadagna il consenso, perché è nella spesa pubblica che alberga il peso degli interessi corporativi e soprattutto delle burocrazie. Quindi la sfida di Cottarelli sarà quella di provare a forzare questa specie di Moloch che nessuno finora è riuscito a scardinare. Detto questo, 10 miliardi di tagli alla spesa secchi mi sembra complicato, probabilmente si tratta di mobilitare 10 miliardi, il che vuol dire che ad esempio il governo può immaginare che pagherà meno interessi, allora forse non sono proprio tagli ma risparmi. Adesso vediamo, perché insomma la legge di stabilità arriverà tra qualche giorno e poi vedremo che cosa c'è scritto. È vero, vedremo che ci sarà scritto. A me appunto probabilmente sono rimodulazioni e già cambia tutto. Comunque grazie a Dino Pesole, perché poi hai citato il 1,6 miliardi che serve subito, poi la parte della rata IMU e poi vedremo su cuneo fiscale, i rimborsi alla pubblica amministrazione, il tutto con la legge di stabilità da preparare. Mi sa che ci risentiremo, Dino. Grazie, il traffico, e poi parliamo dell'ultimo tema: Ansaldo Energia, Alitalia, la Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, adesso lo straniero fa come una paura, fa 90, quindi tutti a correre ai ripari, e vorremmo capire se insomma questi soci stranieri debbano esserci nel nostro capitalismo, nei nostri capitali, oppure no, perché se ci entrano è chiaro che prima o poi vogliono anche far sentire la loro voce. Allora, l'Italia, il direttore finanziario di Air France durante il CDA, il Consiglio di Amministrazione dell'Italia, che è in corso, ha detto, anzi appena terminato qualche minuto fa, ha detto menzogne, ha definito menzogne le anticipazioni presenti oggi sul quotidiano Messaggero di un Air France che andrebbe a licenziare, se diventasse l'unico azionista di Alitalia, 4.000 persone, taglierebbe molte rotte, trasformerebbe come unico hub l'aeroporto francese Charles de Gaulle al posto di Fiumicino. Però il tema c'è tutto, perché su Alitalia c'è il terrore dei francesi, ma la compagnia non ha soldi, nel senso che ha bruciato 300 milioni di euro nei primi 6 mesi, ha in cassa liquidità per 128 milioni di euro. Non serve essere un grande manager per capire che andando avanti così la stiamo mantenendo in vita in maniera artificiale, la compagnia di bandiera. E poi c'è l'altro grosso tema che riguarda invece Ansaldo Energia. A questo punto è chiaro che la Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe entrare con una quota consistente, si dice oltre il 70%, nella controllata del gruppo Finmeccanica, famoso per produrre turbine, e poi in un momento successivo dovrebbero arrivare anche i coreani di Doosan, che sono in pole position per entrare dentro Ansaldo Energia. Allora, al di là di qualunque scelta, il paradosso che anticipavo all'inizio del programma, a mio avviso, è un po' questo: i soci stranieri vengono trattati un po' come gli extracomunitari in questo paese. Li si vuole perché servono, però non devono esistere, non devono farsi vedere, non devono contare, non devono scomparire. E poi, se invece gli spagnoli in Telecom o i francesi nell'Italia dicono qualcosa, attenzione, siamo alla colonizzazione degli stranieri. Vorrei parlarne con chi è presidente non solo dell'ENI, quindi il gruppo più multinazionale, più internazionale che ha questo paese, lo dico con massimo rispetto anche per gli altri, ma anche del Comitato Investitori Esteri di Confindustria. Giuseppe Recchi, buonasera. Buonasera a lei. Lei ha passato anche, la sentiamo un po', se è in viva voce le chiederei di levarlo, lei ha passato anche molto tempo in General Electric, quindi conosce anche la logica e la mentalità americana. Mi dica una cosa, insomma, siamo un po' schizofrenici nell'essere, nel chiedere l'aiuto dello straniero e poi gridare alla colonizzazione? Ma guarda, il tema è, purtroppo ha ragione, lo inquadra bene lei, è il fatto che noi ci occupiamo degli stranieri solo quando li troviamo presenti con fatti eclatanti in Italia, sono sempre poi situazioni di emergenza, per cui le cerchiamo di risolverle mettendo la toppa, pensando di perdere patrimonio nazionale, ma il tema è ben più antico e ben di più lungo termine, cioè noi dobbiamo assolutamente aprire il nostro mercato, perché solo aprendo il mercato al mondo riusciremo così ad avere le nostre imprese che riescono a essere competitive e andare nel mondo, perché rimanendo chiusi nei nostri confini difficilmente riusciremo a creare valore a lungo termine. Infatti le situazioni che lei citava purtroppo sono situazioni antiche che non sono risolte e oggi i nodi vengono un po' al petto. Ma insomma, per esempio, quando lei da italiano, per cui anche lei avrà dei risparmi postali, immagino, vede che la Cassa Depositi e Prestiti entra nel gruppo e sostanzialmente va a comprarsi e diventerà azionista di maggioranza di Ansaldo Energia, è contento perché resta italiana o dice no, forse potevamo far entrare i capitali stranieri? Ma io non trovo che ci sia un valore nell'italianità dell'azionista, cioè l'azionista, secondo me, che sia una società pubblica quotata dall'azionariato diffuso, non vai a vedere che passaporto ha. Quello che è importante è che invece chi compri perché trova nell'azienda acquisita un valore aggiunto particolare, vuoi che sia la tecnologia, vuoi che sia il suo brand, vuoi che sia il suo mercato. E quando compra, quindi noi dobbiamo far di tutto perché trovi nel nostro paese le condizioni migliori per produrre qui, per fare di questo acquisto il suo, diciamo, hub di espansione all'estero o di inserire il suo acquisto nella hub che già ha costruito. Allora così aiuteremo le nostre imprese a ingrandirsi e a sfruttare opportunità. Se noi invece non ci focalizziamo su questo e ci preoccupiamo di proteggere il passaporto senza permettergli di andare bene, secondo me sono, diciamo, mosse di breve termine, ecco, a lungo poi ci ritroveremo col problema. Ma sempre come italiano, lei è più preoccupato di un'Alitalia che va ad Air France o di Ansaldo Energia che va ai coreani, dovesse andare mai ai coreani, non mi sembra in questo caso, però. Ma guardi, adesso non entro nel particolare, sono operazioni ben diverse. Come italiano io mi preoccupo che, come dicevo, chi investe lo fa perché trova nella società un valore aggiunto importante. Allora mi interessa sapere qual è il progetto di crescita che ha l'investitore, e se questo investitore ha le spalle grandi e la visione lunga, sono molto rasserenato a prescindere da chi sia. Il problema un po' della nostra microdimensione, noi continuando a rimanere piccoli continueremo a subire situazioni, e più il mondo cresce peggio sarà. Secondo lei, è chiaro che poi Paolo Scaroni è l'amministratore legato del gruppo Eni e della parte operativa, ma sarebbe giusto e corretto chiedere all'Eni un ruolo per blindare alcune società italiane da un'eventuale conquista straniera? O rischieremo una nuova IRI che poi faceva anche i panettoni di Stato? Ma guarda, adesso Eni o non Eni, io penso che è giusto considerare che uno Stato difenda i suoi interessi strategici, e certi asset devono essere considerati strategici per quello che rappresentano per il Paese, ma il tema non è come farlo, il tema è che non va fatto attraverso l'equity, la partecipazione azionaria. Lo Stato, in quanto regolatore, in quanto promulgatore di leggi, ha quegli strumenti per agire, per proteggere i suoi interessi, e per cui quello deve fare. Se lo Stato va a risolvere partite d'emergenza, io credo che alla fine abbia il fiato corto, perché non le riuscirà a risolvere tutte. Noi dobbiamo assolutamente preoccuparci di creare le condizioni per cui le nostre aziende stiano qua, crescano qua, e vengano addirittura stranieri che scelgono l'Italia come il miglior posto al mondo in cui investire. Ecco, oggi non è così. Beh, sì. Perché invece abbiamo purtroppo un sistema al contorno che sicuramente non favorisce l'impresa. Io sono molto preoccupato della nostra industria italiana che fa fatica a crescere. Ecco, c'è chi, così chiudo sulla polemica con cui abbiamo aperto anche questa puntata, chi ritiene che invece l'euro sia la colpa di tutti i nostri mali. Ora, io dicevo prima, attenzione, non è che se torniamo alla lira smette di essere la burocrazia italiana una delle peggiori d'Europa, i tempi per aprire uno stabilimento 4 volte superiori a quelli spagnoli, la giustizia civile, la più lenta probabilmente di Europa, e via così. Il debito anzi aumenta, e soprattutto le inefficienze di sistema, le corporazioni, le scarse liberalizzazioni, la scarsa concorrenza in alcuni settori. Lei, quando era il numero uno di General Electric, mi ricordo che dovevate aprire un impianto per strumenti di segnalamento ferroviario in Sicilia, 30 milioni di investimento, 35 ingegneri già selezionati. Perché vi bloccaste a un certo momento? Per l'impossibilità di capire cos'era cosa ti aspettava, cos'era il tuo destino. Vede, le imprese multinazionali decidono per opportunità alternative, cioè possono mettere i loro $100 in un paese piuttosto che in un altro a secondo di considerazioni di convenienza di mercato, di crescita, di rischi che si corrono. Tutto questo entra in un piano industriale dove si valutano i pro e i contro, e ciascun, diciamo, area manager fa il suo piano industriale cercando di essere imprenditore per il suo paese, attirare quei $100 dell'impresa nel suo paese. Per cui quello che succede è che i paesi competono tra di loro, ma non pesano più i costi diretti, il costo dell'energia piuttosto che il costo del fisco. Quello che pesa è il costo dell'incertezza. Oggi, di fronte all'impossibilità di scrivere un business plan preciso e poterlo rispettare, tempi e quantità, le imprese si scoraggiano e molti vengono in Italia, ma poi se ne vanno perché non ce la fanno più ad avere a che fare con una controparte troppo incerta. E infatti voi quel centro lì non lo costruiste più in Sicilia perché mancava via libera della giunta regionale, e andaste a farlo poi in Toscana. Faccio notare che il centro ha 200 dipendenti adesso, e quindi complimenti anche alla giunta regionale siciliana. Visto Toscana. Che voglio... Sì, Toscana, ma quella siciliana per aver perso l'occasione. Mi dica una sola cosa, Recchi, ha un senso uscire dall'euro? Ma guardi, mi sembra che inseguiamo sempre delle soluzioni facili, immediate. L'euro ci siamo entrati per guadagnare in credibilità e per guadagnare tempo in fare riforme per essere competitivi. Oggi non è uscendo che facciamo quelle riforme. Noi dobbiamo fare queste riforme, essere competitivi addirittura contro i paesi che sono nell'euro, che giocano come noi. Lei ricordava prima delle classifiche che contro i nostri stessi, diciamo, fratelli d'euro hanno numeri per noi molto molto peggiori, certo. Per cui noi dobbiamo assolutamente passare da lì e fare anche un po' di compiti a casa sempre, perché continuiamo a cercare capri espiatori che, voglio dire, hanno il fiato corto. A me ricorda, nel ringraziare la presidente dell'ENI Giuseppe Recchi, ricorda molto un passaggio bellissimo di Blues Brothers, quando si cercano colpe e si danno sempre le colpe ad altri, sempre fuori, sempre esterni. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Ed è veramente tutto da Sebastiano Barisoni. Comunque la pensiate, un auguro di buon fine settimana, un ringraziamento a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.